Analog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché Marino l'ha abbassato? Marino l'ha abbassato, l'ha detto, l'ha risposto all'altra cosa, gli è stato chiesto. L'intervistatore. L'unica cosa è inserire nei posti giusti una persona onesta. Nella Rai ha messo un ragazzo che si chiama Fico, Roberto Fico, napoletano, e l'ha messo alla vigilanza Rai, presidente. Aveva uno stipendio che poteva prenderselo di 24.000 euro all'anno, non l'ha preso, aveva l'auto blu, non l'ha preso, aveva una diaria, non l'ha presa, aveva 30.000 euro per il suo ufficio per organizzarsi la vigilanza, ha speso in un anno, invece di 30.000, 158 euro. Questo è solo un assaggio del passato, di quello che in televisione è passato nei talk show dedicati alla politica nella stagione precedente. Si presenta in realtà quest'anno una fantastica stagione per chi avesse passione o perversione di seguire capillarmente la transumanza della politica in televisione. Leggo oggi su Panorama un pezzo di Antonella Piperno dove fa, non avevo mai pensato di considerarli così tutti assieme, l'analisi degli 11 talk show politici che stiamo cominciando a vedere dalla giornata dell'altro ieri, quando c'era il premier Renzi da Vespa. Beh, sono tantini, ci saranno 11 salotti dove 11 giornalisti parleranno di politica, e parlano di politica con le solite persone, perché alla fine la compagnia di giro è abbastanza limitata. Poi nel governo delle larghe intese alla fine sono sempre gli stessi a parlare, parla uno, parla l'altro. E devo dire che la cosa mi interessa e mi intriga, perché mi interessa di capire, visto che televisione mi sono occupato per tanti anni, come il pubblico percepisce questa nuova deriva della televisione. La televisione si è orientata drasticamente sul talk show politico, perché alla fine è la cosa che costa meno e rende più, sia in termini di ascolto sia in termini di soldi, contatti dell'emittente con il potere politico, diciamolo chiaro che è così. Vi elenco quello che state guardando, guarderete nelle serate da qui alla fine della primavera, agli inizi dell'estate. La novità è Massimo Giannini su Rai 3, che riprende il Timone di Ballarò. Novità, era ospite quasi fisso per tutte le stagioni precedenti, semplicemente c'è stata un'alternanza perché Floris è già andato a fare i suoi due programmi alla 7, già non è che sia partito a sprombattuto. Comunque è lì, sta lì anche lui con i suoi che si contenderà con il suo bravo comico accanto. Anche Giannini ha un comico accanto, partirà con Benigni, anche le formule sono molto simili: sondaggista, conduttore, comico. Questa è la grande triade fondamentale attraverso cui passerà il vaglio. Poi alla fine impazziranno gli uffici stampa, sono sempre le stesse persone. Poi c'è solo Lilli Gruber, 8:30, consolidata, Formigli, Piazza Pulita, consolidato anche alla 7, tutti e due alla 7, Del Debbio, quinta colonna su Rete 4, è un po' un taglio pop. La collega di Panorama, Antonella Piperno, dice è lo stile funaresco. Sì, eredita un po' gli ultimi stracci di quello che era uno stile che aveva un senso a metà anni 80, oggi un po' meno, stare dalla parte della gente, fare la parte del gran bonaccione della televisione, quello che come se non fosse visibile il luogo in cui si trova, l'editore per cui parla, è comunque onnicomprensivo, plateale, dalla parte dei poveri che strillano, che urlano, stanno lì come una rassegna di poveretti in mezzo a una piazza aspettando di dirla loro, ma devono urlare, poi non è che sia mai molto percepibile quello che dicono. L'immarcescibile Bruno Vespa, gli hanno un po' sugato una serata, però è sempre lì, infatti l'apertura il premier la va a fare da Vespa. Floris l'abbiamo già detto, poi c'è Giulia Innocenzi, una new entry per modo di dire, perché era già una animatrice del salotto di Santoro, adesso sta con Piff, che è lo strafighetto, gli strafighetti, per fare pubblicità di telefonini, perché lo vedi dappertutto, perché è dalla parte giusta, quindi anche lei ha il suo bello spazzettino sulla 7, anno 1. Nicola Porro rifà la sua trasmissione su Rai 2, non tutti se ne accorgono, però sta lì anche quest'anno, continua a stare lì. Santoro rimane anche lì imbullonato, inchiodato, si avvicina sempre di più a Costanzo Santoro. Guardate come oggi Costanzo, vedrete come sarà Santoro da qui a poco tempo. È della genia di quelli che non mollano mai, anche quando non avrebbero nessuna ragione plausibile, concreta, per continuare a fare le stesse cose. Potrebbero fare un passo indietro e alimentare magari forze nuove, forze giovani, non aver più bisogno della loro faccia. Ma sapete com'è, la televisione non si molla mai, la televisione è come un amante inesauribile che ci esaurisce, ma alla quale non possiamo fare a meno. Luca Telese parte con Matrix, anche lui è un marchio che è già passato di mano in mano, e alla fine Gianluigi Paragone, che anche lui fa il suo talk politico, si è molto rinnovato nello stile. Mi ricordo che girava con delle orrende completini color tortora, che era direttore della Padania, veniva a fare la segna stampa in questa radio, delle scarpettine a punta scalcagnatine, un po' triste, un po', e adesso fighissimo, braccialetti, abbronzatura, anellini, collanine, scarpe rosse da ragazzino, insomma, fa la sua parte. Ecco, tutta sta roba, voi cosa ci farete? 800240024. Claudia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, io volevo dire se le emittenti se si sono poste il problema che ormai c'è l'effetto saturazione. Cioè, io che sono una persona impegnata, che Beh, non tanto, scusi Claudia, se ripropongono più o meno la stessa minestrina ancora più allungata l'anno prossimo, evidentemente a conti fatti gli conviene. Certo. Floris non varrebbe 4 milioni di euro se ancora questa roba nel mercato avrebbe un senso. Lei ha ragione, però io spero che gli duri poco questa greppia, perché non è. Ma perché lei ha una sorta di senso di invidia di questi signori che in fondo fanno un lavoro ben retribuito? No, non è questo. Perché deve durare poco? A lei non interessa? La domanda che mi faccio io, dico, quanti passaggi dovranno fare questi politici e quante volte dovranno farsi vedere e dire le stesse cose se ci sono 11 talk in una settimana? Appunto. No, guardi, è proprio insopportabile. Io ormai non niente, guardo soltanto qualcosa così che non mi costa fatica. Non è che guarda, Gentonti, falla parlare. Già ho capito che lei non ha molto da dire, avrebbe chiamato anche se avessi parlato di varietà. Lei dice la televisione è uno schifo, non la guardo mai. No, non è vero, no. E lei la guarda allora? Io sì. E cosa guarda? Guardo molto la televisione. Mi dica una cosa che le piace, a parte Angelo, mi dica guarda i documentari di Piero Angela. Grey's Anatomy. Ah, ecco, perfetto. Oh, guarda cosa è bella, zozza, sanguinolenta. Sanguinolenta. Poi mi piace. Poi mi guardo la Gruber, non perché mi sia simpatica lei, ma perché è sempre calmo. No, è brava, è una vera professionista. È una che ha mantenuto il suo modello con coraggio invece di inseguire. Sì, questo è vero. Però, insomma, oddio, qualche volta le domande, cioè, tipo quella dei bikini, se è in forma la Boschi, insomma, se la poteva risparmiare. Però, perché doveva risparmiarsi? È stato l'argomento dell'estate. D'altronde, scusi, un ministro espone le chiappe, è chiaro che qualcuno poi gli chiede ragione sul mantimento. La Boschi è stata grande, io dico sempre che i toscani c'hanno certo, una marcia in più. Dopo gli umbri, c'hanno una marcia in no, più. No, purtroppo sono i nostri cugini cattivi, dice Malaparte. Comunque. No, meravigliosa, gli ha risposto. Vabbè, proprio. Le è piaciuta. Sempre. Beh, comunque, vedi, di tutta la politica, di tutte le problematiche che attraversano il paese, lei, il punto che l'ha toccata è la cellulite del ministro Boschi. Edoardo Novelli, buongiorno. È caduto Edoardo Novelli, adesso lo ribecchiamo, era il professore, era la spalla che ci serviva più in questo momento, un professore insegna comunicazione politica presso l'Università Roma 3. Però mentre riprendiamo il volo il professor Novelli, che stava in un treno, ma lo prenderemo senz'altro, andiamo avanti con il nostro pubblico. Io riempo lo spazio per quanto possibile dicendo quello che penso io. Io penso che senz'altro vero e senz'altro giusto che questo è il modello che in fondo più conviene alla televisione nel mantenere. È giusto che non siamo noi che dobbiamo definire quale sia la televisione. La televisione ormai è uno strumento abbastanza residuale di presa sulla realtà, e la politica che cerca la televisione come strumento di propagazione di consenso è una maniera residuale comunque per accontentare quella parte comunque del proprio elettorato che ancora confida nella televisione. Molti di questi programmi televisivi che ho citato si mantengono perché fanno parte di un circuito integrato, fatti di giornali, Amici degli amici, Gente che conta e via dicendo, quindi se ne parla. Infatti, come cambiano emittente, improvvisamente se ne parla un po' meno. Francesca, buongiorno. Buongiorno, sono Francesca. Sento delle urla alle sue spalle, la stanno inseguendo? Sì, Vespa e compagnia. Ah, c'è la televisione accesa in questo momento? No, è una radio in un bar. che non è collegata sulla sua trasmissione. Mi dispiace, dica di cambiare la sintonia. Allora andiamo al punto. Cosa pensa lei, diciamo, di questa sbornia che dovremmo anche quest'anno sorbirci o felicemente usufruire? Assolutamente invidibile. Ma lei dice che è invidibile. Ecco, come spiega Francesca? Perché già due persone hanno chiamato per dire che è uno schifo. Se lo fanno qualcuno la guarda. Io non dico che è uno schifo assolutamente, perché non è un italiano corretto e garbato. Io dico che sono ripetitive, inutili. Io il signor Vespa non l'ho mai visto in vita mia, tranne la notte del terremoto dell'Aquila. Vabbè, questo perché avrà il suo pregiudizio nei confronti di Vespa. No, non mi piace, non mi è mai piaciuto. E se non lo guarda, come fa a sapere se le piace o no? Non mi piace, punto e basta. Vabbè, non le piace come uomo, Come uomo mai preso in considerazione. Vabbè, dicalo quello che le piace. Ma perché... non mi piace il suo modo di scrivere, il suo modo di condurre le trasmissioni, non mi piace. Certo, se non lo conosci non lo puoi evitare. Vabbè, lei, diciamo, siamo ancora alla prima reazione del pubblico medio italiano, che è quello di prendere le distanze. Sono tutte verginelle, tutte vestali, tutti guardano la buona televisione, tutti hanno profondamente, in gran dispitto, come dice Dante, la politica che passa per la televisione, perché dicono che è un gran salottino. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Edoardo Novelli, le riassumo quello che nel frattempo è accaduto. Novelli è un insegna comunicazione politica presso l'Università Roma 3, ha scritto un'infinità di opere proprio sull'analisi dei partiti e della politica. Siamo a una fase che era già stata lambita dall'attenzione l'anno scorso, quest'anno è nel pieno, 11 talk show, ma poi non ho citati altri, che bene o male faranno la passerella alle solite 4, 5, 10, 15 persone. Gli italiani che mi hanno chiamato, campione esemplare del medio pubblico italiano, subito prendo le distanze, che schifo, non lo guardiamo, quello è brutto. Ma la televisione e la politica invece in realtà hanno un connubio ben proficuo per entrambi, perché sennò altrimenti si farebbe varietà, si farebbero altre cose. Assolutamente, è un rapporto di amore e odio, di controllo reciproco, c'è un'attrazione strettissima tra questi due elementi. La politica ha bisogno della televisione per essere vista, per parlare, per essere guardata, per essere partecipata. Nessuno di noi va a comizi, nessuno di noi va più in sezioni, nessuno di noi partecipa più, almeno la stragrande maggioranza di noi, a attività politiche organizzate dai partiti, che peraltro non sono più in grado di organizzare sul territorio una loro presenza, una loro rappresentanza. Quindi alla politica si partecipa come telespettatori principalmente, quindi la politica necessita del palcoscenico televisivo. Dall'altra parte la televisione ha con pochi costi, con poche spese, mette in scena questo spettacolo che, sebbene tutti gli italiani dicano Dio che schifo, il salottino salottino, c'è una fetta, ovviamente stiamo parlando di una piccola fetta di italiani, ma non così piccolissima, che sono degli assidui consumatori di telepolitica, sono veri e propri addicted, che quindi saltano dalle 19.40, poi vanno nel nuovo programma di Floris, poi passano alle 20.30 con della Gruber, poi vedono il programma in prima serata. Allora senta Novelli, siccome mi impello le informazioni del traffico, mi interrompo solo pochi secondi, poi prenderemo proprio l'analisi di questi indivanati italiani, che sono grandi partecipatori passivi della politica perché la guardano in televisione e poi la twittano. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, analizziamo dall'altro punto di vista, da quello che sta stravaccato sul divano, l'esplodere del talk politico in televisione, che abbiamo visto ha diversi punti di vista dei nostri ascoltatori. Molti mi dicono è il suo pubblico che non apprezza la televisione, la politica in televisione, noi l'apprezziamo, e altri mi dicono è un po' come gli umarei, quelli che guardano con le braccia dietro la schiena i cantieri per strada. L'italiano medio Marel televisivo guarda sempre lo stesso spettacolo, ha l'idea di partecipare, di stare nel grande giro, ma in realtà non partecipa, guarda soltanto. Gianni. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ma io penso che il problema non sia tanto degli italiani, ma una televisione che è povera di contenuti, nel senso in questi ultimi anni abbiamo visto un grande nascere di televisioni con digitale terrestre, ma poi in realtà i contenuti che mettono dentro più o meno sono sempre quelli. No, Malattia imbarazzante è stata una grande svolta nella televisione, vedere programmi del genere. Però se guardiamo, abbiamo delle televisioni che campano principalmente con programmi sportivi, di calcio, così. Ma andiamo sulla... usciamo perché il tempo è poco. Il talk politico che è diventato una partenogenesi così virulenta, lei come lo vede, come lo giudica, cosa guarda? Sinceramente io non guardo poco la televisione perché arrivo a casa tardi la sera, quindi tra una cosa, la famiglia e l'altro, e dedico 10 minuti alla televisione e tanto. Però quel poco che posso vedere sono dei programmi ripetitivi, dove vi fanno, però la gente li guarda più che altro per annoiare. Vabbè, abbiamo capito che chi ascolta la radio poi non guarda la televisione. Paola, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ascolti, io sono veramente un'appassionata di talk politici. Oh, finalmente. È cominciato tutto, diciamo, qualche anno fa durante una mia influenza. Ho cominciato a vedere Omnibus la mattina perché mi faceva compagnia. Sì. Adesso mi permette di affrancarmi da mio marito, di farmi una bella bisticciata quasi tutte le sere, ma tu sempre con sta politica non ce la faccio più. Io me ne vado in camera mia e guardo la mia politica e sono veramente appassionata. Nicoletti, mi piace di essere informata, non solo. Si lascia portare per mano verso il mondo dei sogni, da Vespa, da Floris, da Del Debbio, da Santoro, da Paragone, via dicendo. No, per esempio la Gruber non la sopporto, io non la posso vedere. È l'unica donna di tutta la Svizzera che ho citato. Ma la Gruber che si permette di giudicare il di dietro della Boschi. Ma siete fissati, scusate, Lilli, a parte che è un'amica, quindi non sono parziale, ma lei, sono 30 anni fa la giornalista, adesso perché ha chiesto alla Boschi, ha fatto la domanda. È grossa, Nicoletti. Sì, è un grosso, per quello, perché era grosso, gli ha fatto la domanda, l'abbiamo visto tutti. No, è perché lei non si deve permettere di fare per Ma perché è toccabile il culo della Boschi? Scusi, non se ne può parlare. No, ma siccome è talmente bella, Nicoletti, talmente bella che se io fossi bella come la Boschi o lo fossi stata. Ma bella anche per il sedere, evidentemente. Non, ma poi non mi importerebbe di avere un po' di... Signora, ma questa è una pruderia però che non accetto, scusi. È una ministra scanzonata, divertente e ha modo per rispondere perché ha la lingua svelta e sa come rispondere. Naturalmente è stata al centro di tutta, nel bene o nel male, ha torto ragione, di tutta la parainformazione politica di quest'estate per i suoi bikini. Anch'io gli avrei fatto questa domanda come prima domanda, poi passerei altro. Edoardo Novelli, come vede, stiamo toccando con mano quello che è il pubblico poi della televisione, non è che è roba diversa, non ci facciamo illusioni. È sempre televisione, diciamo. Ecco, lei vede però, strano che 3 telefonate nelle 7-8 che abbiamo sentito in 10 minuti sono fermati sull'unica cosa che consideravano improponibile, una domanda fatta da Lilli Gruber al ministro Boschi sui suoi famosi bikini estivi. Ecco, come vede però prevale rispetto, e ne sono passati dei problemi in questi giorni, si sta pensando di tagliare miliardi alla sanità, non mi sembra un problemino di poco, però la gente rimane colpita dalla facezia sul sedere della Boschi. Sì, devo dire che in effetti è una domanda irrituale, anche perché non ha mai chiesto le domande, non ha mai chiesto dei pettorali a Renzi o di altre cose, di parti anatomiche dei parlamentari, dei ministri. Non siamo ancora così avanti però di dare stesso peso. Esatto, quella, però in questo c'è una sua irritualità, insomma, soprattutto da una donna che, come le Banks, lei si ricorda molti anni fa, di anni fa, venne giudicata la più tele puntini della televisione italiana dopo ma lei fu anche beccata a tette nude tanti anni fa da un paparazzo. Esatto, fu proprio così che venne giudicata la più tele SC e poi completate voi la parola, insomma, e ci fu un certo scandalo. Però lei stava a casa sua nascosta e faceva quello che voleva. D'accordo. Però insomma il fatto è che quello che spesso i telespettatori o noi ci dimentichiamo è che quello che vediamo in televisione non è un programma fatto per accrescere la competenza, il livello civico degli italiani, la partecipazione democratica. Questo, se avviene, cosa che peraltro non avviene, sarebbero tutti quelli che si possono dire degli effetti collaterali. La politica in televisione è fatta, pensata, organizzata e studiata per fare spettacolo, per fare aspetti. Ma allora sono i politici che sono, scusi Novelli, i politici sono le nuove soubrette o in realtà... Certo, accidenti, guardiamo la classe politica, ma noi sappiamo benissimo che parte della classe politica italiana è stata selezionata dai casting, perché adesso un'altra cosa da dire, lei lo saprà bene. Lei ha visto i 3 Serenetti al Patto del Tortellino, tutti belli, tutti... Meravigliosi, erano meravigliosi, erano 4 e poi c'è anche una foto che secondo me è spettacolare quando c'è Lady Peschi che passa davanti a tutti loro e che sembra veramente un casting, ma ha detto ciò una volta, era se non altro, era per dire come è cambiata il ruolo, l'egemonia dei due soggetti che si sono abbracciati in questo abbraccio mortale o appassionato che tagliano. Una volta era la politica che diceva, erano i partiti che decidevano chi andava in televisione e dei loro rappresentanti. Adesso è la televisione che decide: voglio questo, voglio quest'altro, voglio quest'altro ancora. E quindi sceglie. In base a come ha organizzato il salotto, come ha organizzato il casting. E oltretutto noi abbiamo avuto alcune persone che. E adesso la dobbiamo segare. Novelli, riprendiamo l'argomento perché, ahimè, la sigla ci dice che abbiamo finito. La televisione sceglie in base all'estetica.